Come ho detto, è un onore essere allenatore della squadra inglese. È un sogno che si realizza e credo che qualche cosa che tutti vorrebbero provare. C'è grande aspettativa e lavoreremo in questa maniera per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Io comincerò a lavorare dal 7 di questo mese. Ho già cominciato ieri, veramente, guardando le partite del campionato inglese, ma direttamente a Londra dal giorno 7 di gennaio. Vorrò capire, incontrando i giocatori, incontrando i manager, quali sono i problemi, perché credo che questa squadra sia una grande squadra e sono convinto che si possono fare grandi risultati.